percepisco un cambiamento, lo sento lindo nella mia mente, non lo temo, ma si incide ferreo nel quotidiano essere, vedo schizzare come magma il nuovo punto di rottura. Io lo accetto, poi che ne faccio parte, il vecchio senza righe è stato risparmiato dalla dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà. Concetto cubico, quello della realtà, a volte marcia, a volte semplice, ma non convincerti che sesso, droga e rock and roll ti facciano vivere. E sarà un brindato che salga la luce di una vita stragonfia di miracoli, di gesta etiche, di eroi anonimi, di falsi belli che fittizi e puzzle. L'ora è venuta, il punto di rottura, cazzo, il punto di rottura, punto di rottura, punto di rottura, punto di rottura, punto di rottura. È stato risparmiato dalla dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà. Di vecchio senza rughe è stato risparmiato dalla dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà. Di vecchio senza rughe è stato risparmiato dalla dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà. Il punto di rottura, punto di rottura, punto di rottura, punto di rottura. Senza rughe è stato risparmiato alla dolce realtà, dolce realtà, dolce realtà. Perché senza rughe è stato risparmiato alla dolce realtà.